Ma ora in onda Note, a cura di Giacomo Sapienza. Ritorniamo con la trasmissione Note su CRM Happy Radio dopo la pausa festiva, ancora una volta insieme per parlare di alcune note che caratterizzano la quotidianità cefaludese, ma non solo. Ma Note è anche un programma che vuole portare alla ribalta alcune notizie che magari passano meno sugli altri media. Oggi però abbiamo un ospite molto importante e parleremo di alcuni eventi che si realizzeranno nel comune di Gratteri e a Cefalù sabato e domenica prossimi. Buongiorno al presidente dell'Archeo Club Cefalù, professoressa Rosalinda Brancato. Buongiorno. Iniziamo innanzitutto con parlare delle iniziative che riguardano l'Archeo Club, e così annunciamo l'iniziativa Chiesa Aperta che ritorna a Cefalù, un'iniziativa molto importante che ci ha permesso nel corso di questi anni di poter ammirare delle bellezze straordinarie, però molto spesso chiuse alla vista dei visitatori che vengono nella nostra città e del pubblico cefaludese stesso. E allora, come si svolgerà la giornata di domenica e cosa sarà aperto? Qual è la chiesa aperta? Sì. Buongiorno agli ascoltatori. Questa manifestazione delle chiese aperte noi la facciamo dall'inizio della costituzione del nostro club, perché è una manifestazione indetta dal Consiglio nazionale. Quest'anno ci siamo limitati ad aprire soltanto una chiesa, ma che è una chiesa che è poco conosciuta a Cefalù, perché per tanti decenni è stata chiusa. In breve, è la chiesa intitolata alla Santissima Trinità al Borgo. È una chiesa che fa parte, che è adiacente ed è proprio la chiesa del convento, dell'ex convento dei frati conventuali domenicani, che si stabilirono in quella zona nel 1548 e fondarono questo grande convento, essendo all'inizio ospitati dalla confraternita della Santissima Trinità, che lì avevano una piccola chiesa, dove poi invece sorse la chiesa che esiste tutt'oggi. Il complesso conventuale e la chiesa stessa hanno subito un restauro lungo, circa 25 anni, e la funzione a cui il plesso conventuale dovrebbe essere aperto è una scuola superiore di restauro dei beni culturali del bacino del Mediterraneo. Però ancora questo progetto, seguito dal rettore della chiesa Monsignor Crispino Valenziano, non è stato possibile attuarlo, perché insomma ci vogliono fondi e con le difficoltà del giorno non è molto semplice dare inizio a questo progetto, che è abbastanza cospicuo. La chiesa è stata restaurata e finalmente l'anno scorso è stata riaperta al culto. La messa si celebra solo la domenica, se c'è Padre Valenziano la celebra lui, altrimenti un suo sostituto, e poi è chiusa tutta la settimana naturalmente. La chiesa ha una pianta ad unica nave, con delle piccole navate laterali, e poi è una chiesa piena di luce, piena di un'atmosfera veramente sacrale, anche perché è adornata da un grande finestrone fatto da l'artista che ha curato le vetrate della cattedrale di Cefalù, Michele Canzoneri, e poi c'ha un bellissimo ambone in marmo bianco, un bell'altare. Insomma, è una chiesa abbastanza... le chiese sono tutte accoglienti perché c'è il Cristo, però è accogliente anche dal punto di vista architettonico ed è attigua naturalmente, come allora avveniva, al piccolo chiostro. Quindi noi quest'anno apriamo questa chiesa. L'orario è dalle 16:30 alle 20. Perché? Perché noi di solito le apriamo sempre di mattina e di pomeriggio, però siccome sabato sarà presente a Cefalù un eminente rappresentante della curia romana, Monsignor Rino Fisichella, e in cattedrale ci sarà un solenne pontificale, per cui insomma padre Crispino è anche impegnato in questa presenza del pontificale, e quindi ci ha detto che insomma la possiamo aprire soltanto nel pomeriggio, ma insomma sarà abbastanza per chi ha interesse a conoscere questa chiesa. Tanto per riferirmi a un elemento di conoscenza, è la chiesa dell'ex carcere, dell'ex pretura, perché in questo convento, con la requisizione dei beni ecclesiali nel 1860 da parte del nascente Stato Savoia, fu abbandonata, e prima abbandonata, poi fu trasformata in carcere e pretura, e poi ritornò alla chiesa eretta in rettoria, il cui rettore è appunto il Monsignor Crispino Valenziano. Quindi noi vi aspettiamo, se chi non l'ha vista dopo il restauro, chi non l'ha vista da tanti tantissimi anni, insomma, a queste persone farà sicuramente piacere vedere un complesso, una chiesa che è una delle più importanti della nostra città. Ce ne sono tante, per carità, tante chiese anche interessanti, oltre al Duomo, ma il Duomo fa la parte di Leone, non potrebbe essere diversamente. Sì, sicuramente sì. È una chiesa molto accessibile, ricordiamo, per chi non è di Cefalù, si trova sulla via Costa, insiste sulla via Costa, la via parallela a Corso Ruggero, lato Rocca, diciamo, quindi prendendo una traversa qualsiasi che sale verso la Rocca si arriva al grande complesso del San Domenico, oltretutto molto visibile perché arriva dal lato Santa Lucia, diciamo, sì. Il complesso enorme e bianco che troneggia quasi, forse così possiamo, sì, dire, sul centro storico di Cefalù, accanto alla destra della maestosa cattedrale. Ma dobbiamo dare per un attimo la linea alla regia, poi ritorneremo a parlare di Arco Club, ma dell'altra importante iniziativa che si svolgerà sabato a Grattere. Linea alla regia. Ritorniamo in studio, ricordo sempre che potete diventare fan della nostra emittente selezionando il classico mi piace sul noto social network Facebook. E stavamo parlando della chiesa del complesso di San Domenico, abbiamo parlato di questa chiesa straordinaria dove ogni elemento ha un suo significato, un significato profondo che meriterebbe una lettura teologica anche di parecchie ore, così secondo come l'ha voluta Monsignor Crispino Valenziano. Ma per realizzare tutto questo ci sono state due grandissime architette che vogliamo ricordarle. Grazie. Sicuramente l'architetto Bibi Leone, ma l'architetto soprattutto Pasquale Culotta. Lei è la signora Culotta, per chi ci ascolta da fuori. Allora, e lei ha un ricordo della progettazione di questo edificio? Sì, mi ricordo, perché oltre alla progettazione poi l'esecuzione è durato, come tutte le cose d'altro canto in Sicilia, è durato decenni, quindi è chiaro che me lo ricordo. E voglio anche dire una cosa su questo complesso conventuale, che è l'unico dentro il centro storico di Cefalù. Ce n'erano otto conventi, sempre dei conventuali, diciamo, domenicani, agostiniani, francescani, eccetera, oltre quello delle monache di Santa Caterina, che è quello è molto più antico, ma non, di tutto ciò non è rimasto niente. L'unico che conserva ancora, diciamo così, la fabbrica originaria, o almeno la massa architettonica, perché poi durante il corso dei secoli ci sono stati sempre adattamenti, restauri, diventò tribunale, pretura, diventò carcere, quindi insomma era mutato all'interno, e insomma con questo restauro si è cercato di riportarlo dove era possibile, naturalmente all'origine della sua fondazione. Ed è poco conosciuto purtroppo, perché è un po' fuori, cioè non è sul corso, non è sulle strade frequentate, ma è invece, si apre su questa affascinante via Costa, che è molto bella, e poi la parte posteriore dà proprio sulle pendici della Rocca, per cui se facciamo la strada, sì, la pedonale, e allora lì ci si può affacciare sul giardino, perché c'è anche un bellissimo giardino che è stato ricostituito con le essenze che c'erano quando l'abitavano i frati. Insomma, è un complesso molto importante. Sì, come abbiamo detto, ogni elemento non è a caso, ma anche le piante, hanno una storia, diciamo, alle spalle da raccontare, se così possiamo dire. Questa manifestazione di Chiese Aperte è, credo sia una delle primissime della sua nuova presidenza. Sì, è la prima della sua presidenza. Sì, ecco, perché lo voglio dire, dalla fondazione dell'associazione fino a quest'anno la presidente è stata sempre Flora Rizzo, e per noi era la presidente basta, insomma. E però Flora, per i suoi problemi di lavoro eccetera, non ha potuto più adempiere a questa funzione, e quindi sono stata eletta io a presiedere l'associazione. Che cosa dire dell'associazione Archeoclub Cefalù? Chi può iscriversi? Tutti. Ad esempio, perché ci rivolgiamo a un grande pubblico e magari non tutti sono a conoscenza dell'Archeoclub e delle sue iniziative. Cosa ci può dire a proposito di tale associazione? L'Archeoclub, già il nome è indicativo, insomma, significa che ci occupiamo di archeologia. Però ci occupiamo di tutti i problemi e di tutti gli aspetti dei beni culturali, quindi di tutto il periodo della storia, diciamo così, della storia dell'arte e dei beni culturali che ci sono a Cefalù, legati a questo processo culturale continuo di trasformazione eccetera, perché sappiamo che Cefalù è una città antichissima, è pre-Cristo, e secondo il grande studioso di Cefalù, della Cefalù antica, il professore Amedeo Tullio, Cefalù fu fondata nella seconda metà del IV secolo avanti Cristo, per cui poi ha subito vicende varie, con l'arrivo dei Normanni poi Cefalù ebbe quello splendore che si meritava, e così via. Quindi noi ci occupiamo di tutti questi problemi, facciamo delle conferenze, facciamo venire degli esperti, organizziamo delle gite culturali in Sicilia e talvolta anche in Italia, e questa è la nostra attività. Quindi chi si vuole iscrivere, con molto piacere, siete accolti con piacere, e chi vuole frequentarci, insomma, può avvicinarsi con grande piacere da parte nostra. Si parla di Cefalù come uno dei poli più importanti della Sicilia. Come ha ricordato lei anche ora, è una città che racchiude tantissime opere d'arte, una città di più fondazione, come diceva un grande architetto. Ma in che stato versano attualmente i beni culturali della nostra città? Magari partendo dal parco archeologico della Rocca. Purtroppo non versano in una condizione, non dico ottima, ma neppure buona, perché insomma ci sono questi beni cultuali, io li chiamo, perché riguardano il culto, mi riferisco a questi soprattutto, hanno bisogno di manutenzione, hanno bisogno di restauro, hanno bisogno di una cura continua, e purtroppo non ci sono i soldi, sentiamo dire da tutte le parti che i soldi non ci sono. I tagli ai beni culturali sono stati enormi, insomma rischiamo di chiudere anche il Museo Mandralisca, che vogliamo di più. Abbiamo un bene incommensurabile, che è il Parco della Rocca, e anche lì, insomma, le cose non è che vadano bene, la gente ci sale, ma io per esempio ormai non potrei più salirci, perché a piedi non ce la farei più. Aspettiamo, quindi, magari il progetto dell'ascensore. Ma se ne parla da... Io mi ricordo che tantissimi anni fa l'amministrazione di allora bandì un concorso per la risalita meccanica del Parco della Rocca, e Pasquale e Bibbi parteciparono, e allora progettarono un'ascensione con un tapirulan dalle parti del porto, diciamo così. Vinsero il primo premio, ma non fu attuato niente, naturalmente. Come ha detto lei, i soldi purtroppo sono alla base delle grandi opere pubbliche. Però io dico anche che, insomma, sì, i soldi sono alla base. Senza però bisognerebbe soldi puntare su delle però, opere. Però, ecco, insomma, un paese che ha vocazione turistica come Cefalù dovrebbe puntare sul suo patrimonio, che non è soltanto il mare, insomma non può essere soltanto il mare, deve essere abbinato con tutto ciò che noi possediamo e soprattutto con un legame strettissimo con tutto ciò che si possiede nei paesi delle Madonie. A proposito di mare, vogliamo ricordare anche la stupenda passeggiata a mare, anche questa opera dell'architetto Culotta, ha continuato anche poi da Tania. Ah, quella sulla la passeggiata sulla cortina megalitica. Sì, anche sì. Quella purtroppo necessiterebbe di un qualche ritocco, quantomeno. Infatti. Infatti, perché è bella, perché si può percorrere la scogliera. Perché ci sono delle piccoli interventi per dare la possibilità a chi vuole farlo di camminare lungo la scogliera. Però insomma poi personalmente l'ho percorso decine di volte almeno, e posso assicurare che è fantastico, assolutamente straordinario. Dovrebbe essere la via dei turisti, una via obbligata per chi visita Cefalù. Ma credo, scusami, sì. Sono abituata alla radio, credo che non ci sia manco nessun cartello che indichi che c'è proprio questa passeggiata lungo la scogliera. Il popolo degli scogli li chiamava Pasquale. Va bene, insomma, sì, che possiamo fare? Anche il tratto iniziale sulla spalla del molo dà l'impressione di essere su una nave, poi il panorama è assolutamente mozzafiato. E l'ingresso poi a Piazza Marina e l'uscita fino al faro l'ho percorso una decina di volte sicuramente, perché è la mia passeggiata preferita, anche per fare le foto. A proposito sempre di Archeo Club, e poi andiamo nuovamente in pausa, come richiesto dalla regia, altre attività in programma dell'Archeo Club? Sì, ora giorno 18 avremo una conferenza di un architetto che è della sovrintendenza, l'architetto Cucca, che ci parlerà della strada romana, la Valeria, che attraversava l'Italia meridionale e scendeva in Sicilia, costruita dai Romani naturalmente dopo la conquista della Sicilia, e lei percorrerà il tratto da Cefalù a Termini Imerese, inserendo in questo percorso ideale, perché tutto ciò che accadeva lungo questa strada. E questo giorno 18 alle 6:30 alla Sala delle Capriate. Presidente, strada romana, ce n'è un tratto dentro la Corte delle Stelle. Parliamo della Corte delle Stelle, anche un'altra opera che necessita di restauro. Anzi, a proposito, in questi giorni ho visto degli operai restaurare il balcone. Qualcosa finalmente si muove, il balcone era chiuso da anni e anni. C'è un ponteggio attualmente installato e degli operai al lavoro per risistemare il balcone, che ricordo era chiuso con un cancello di ferro ultimamente, e la strada romana in ogni caso è chiusa. Quella è invisibile. Ed è curioso, professoressa, che tanti turisti fanno le foto al pavimento. Alla stella. Alla stella, al pavimento, credendo la strada, il tratto di strada romana. Anche questa è un'opera che bisogna valorizzare. È chiusa, non ci sono i custodi, eccetera, e invece quello è un bellissimo reperto archeologico. Oltre quell'altro piccolo tratto, gli archeologi dicono l'acerto che c'è nel primo cortile del Palazzo Comunale, no? È proprio un pezzettino, mezzo metro, 60 centimetri, e però è sempre pieno di erbacce. Volevo lì è visibile quello che lei cita sempre per le erbacce. Suppongo saranno già state rimosse dopo il soppello. Guardi, io due volte sono andata a rimuoverle con le mie mani. Ogni volta che vado al comune vado a vedere e ci sono sempre le erbe. Due volte le ho tolte io, l'ultima volta

Ritorniamo in studio, concludiamo l'argomento Archeo Club con la professoressa Rosalinda Brancato, presidente di questo importante club che si occupa di archeologia. Abbiamo detto nella pausa che ci sono tantissimi reperti e cefalù già catalogati e conservati. Sarebbe necessario un antiquarium, diceva lei, però il discorso è sempre quello, i soldi. E poi, tanto per, e poi concludiamo su cefalù, sì. Un'altra cosa importantissima, cioè interessante, sarebbe quella di completare il circuito delle mura megalitiche portando alla luce i resti che ci sono su via Discesa Paramuro, che si chiama così perché para il muro della città antica. La interrompo, anche in questo caso i turisti fotografano il muro. Sì, fotografano il muro, lì insistono un sacco di casette basse, magazzini oppure giardinetti, non si sa di chi è la proprietà, se è del comune, se ce l'ha in affitto, se per insomma, quindi lì ci sarebbe anche l'Enel, per esempio, quel brutto edificio dell'Enel che non è più utilizzato. Parlava di acquisizione un tempo. E appunto, quindi insomma, anche lì per esempio, così si completerebbe tutto il circuito delle mura. Si porterebbero a vista, ma comunque forse i nostri figli, i miei figli, i nipoti dei miei nipoti. E allora saluto Stefano, che è stato mio alunno all'asilo. ho avuto Stefano, che ormai è un giovanotto, è stato ginnasio. Sì, è stato alunno all'asilo. Ah, sì? Sì. Non lo sapevo. Ho avuto anche l'esperienza di asilo, sì. Di insegnante d'asilo. Ah, e Stefano, sì, era già per la sua età un alunno molto più grande, perché già leggeva, scriveva davvero, sì, molto in gamma. E un saluto allora anche al fratellino. Parliamo adesso di quanto ho programmato a Grattere. Il sindaco Giuseppe Muffoletto ha voluto con forza l'intitolazione di una strada all'architetto Pasquale Colotta, suo marito. L'architetto Pasquale Colotta, così faccio una piccolissima premessa, è stato il progettista del piano regolatore del progetto di recupero dell'abbazia di San Giorgio, e poi ha scritto anche due bellissimi volumi che hanno davvero fatto storia e sono anche un esempio per l'architettura moderna tutta. Penso ad esempio ad Abitare a Grattere, diciamo, un volume stupendo che è veramente una pietra miliare per l'architettura moderna, anche se tratta un piccolissimo paese. E poi ricordo ad opera degli allievi del professore, perché ricordiamo l'architetto Colotta è il presidente della facoltà di architettura di Palermo oltretutto, ricordo quel volumetto che metteva in relazione Grattere con New York. Con New York. Sì, allora Gratterese, io piccolo, ci sembrava qualcosa di ardito, di assolutamente impensabile poter paragonare Grattere a New York. Però la genialità del docente architetto, diciamo, ci ha permesso di capire che il paragone era possibile. Adesso sabato l'intitolazione di una via. Ecco, come ha preso questa notizia, un suo parere innanzitutto. Sì. Innanzitutto ringrazio il sindaco avvocato Muffoletto, che ha voluto questa insomma, intitolazione, e l'amministrazione, naturalmente tutta l'amministrazione, prima di completare il suo decennio di sindaco, e quindi per questo l'ho ringraziato naturalmente in altra sede, però lo ringrazio anche pubblicamente per questo suo affettuoso pensiero. Pasquale fu molto legato a Gratteri, e Gratteri era per lui un laboratorio didattico, diciamo così, perché per 3 anni di seguito lui portò i suoi studenti del corso di progettazione architettonica a Gratteri e pubblicò dei testi, erano una collana che si chiamavano i Quaderni Neri, e il primo dei quali fu proprio Abitare a Gratteri. E poi, siccome contemporaneamente per una decina d'anni, credo, lui pubblicò anche un giornale di architettura, In Architettura, intitolato, che si faceva qui a Cefalù, il primo numero c'era appunto paragone, ma pigliamolo nel senso molto, molto, molto largo, eccetera, però insomma, lui e i suoi collaboratori in evidenza Gratteri con New York. e perciò Gratteri era, e mi ricordo anche che in un pilastro della vecchia facoltà di architettura gli studenti avevano disegnato la caricatura di mio marito, che era molto facile da disegnare, no? E sotto, i capelli ricci. Sì, appunto, e sotto c'era scritto Grattarsi e Gratteri. Insomma, questi ricordi che mi sovvengono. No, lui non credo abbia fatto piano regolatore di Gratteri, no, lui a Gratteri si interessò dal punto di vista proprio didattico, della didattica universitaria. Invece quello che lui restaurò assieme, sempre a Bibi Leoni naturalmente, fu questa abbazia di San Giorgio nel territorio di Gratteri, che era un'abbazia che lui, che ora io non ricordo perfettamente chi fu il nome del personaggio normanno che fondò questa abbazia, comunque credo fosse un nipote di Ruggero II, e questa abbazia era officiata dai premostratensi, che era un ordine particolare, un ordine religioso, ed era l'unica abbazia officiata dai premostratensi in Sicilia, era proprio l'unica. Naturalmente col corso dei secoli, come sempre succede quando le cose non si manutengono, l'abbazia non esiste più, cioè la parte dove i monaci vivevano, le celle e tutto ciò che concerne la vita comunitaria di una abbazia, di un monastero, ed è rimasta soltanto la chiesa, ma la chiesa anch'essa rudere. Ci sono parte della facciata con un bellissimo portale e poi parte delle due fiancate laterali e parte delle absidi. Però il posto in cui si trova è di una suggestione incredibile. Io penso che la notte lì, da quell'altura, si possa vedere anche le luci, il faro di Ustica. Sì, si vede, confermo, la grattinata confermo. Naturalmente fu restaurato, si fece questo restauro perché era tutta piena di erbacce, insomma. Però purtroppo non sono stati fatti dei saggi per vedere quello che c'è sotto, cioè le fondazioni dell'abbazia, del monastero. E comunque però, insomma, è stato riportato alla luce, sempre la chiesa, cioè, è stata restaurata, e quindi è sempre piacevole fare una passeggiata da quelle parti e vedere questa, perché i benedettini, cioè insomma questi monaci che erano tutti frange poi della grande marea, della grande ondata benedettina, avevano l'abitudine, cioè avevano come principio di insediarsi in posti lontani dai centri abitati, che potevano sfruttare dal punto di vista agricolo, per cui un monastero, un'abbazia era un piccolo mondo chiuso in sé, completamente autosufficiente. Sì, ricordiamo che questa abbazia che è stata fondata e affidata ai monaci premostratense sorge accanto alla sorgente di San Giorgio, che è la sorgente che fornisce l'acqua adesso all'intero paese di Gratteri, quindi una zona agricola molto ricca proprio per la presenza dell'acqua e soprattutto del grande bosco di San Giorgio sotto la rupe. Oltretutto nella rupe è legata una leggenda proprio di queste a seguito della distruzione dell'abbazia. Magari gli interessati potranno venire sabato a Gratteri e sentire anche questi racconti. Prego. Io non la conosco, cioè non l'ho studiata, quindi non è che posso parlare, però quello che mi preme sottolineare è che come questa gente, questi uomini che si ritiravano a vivere in solitudine eccetera, avevano come scopo quello di usare la terra, di dissodarla, di coltivarla, e infatti loro sceglievano posti, come ha detto prima Giacomo, che vicini all'acqua, ci doveva essere un corso d'acqua perché l'acqua era necessaria, E poi loro dentro l'abbazia facevano tutto, perché coltivavano la terra, c'era la falegnameria, c'era il forno, c'era la cucina, c'era la tessitura delle loro vesti, il cuoio per fare le scarpe, insomma erano completamente autosufficienti. Sicuramente un progetto che dovrà essere ripreso, e penso che sabato si parlerà anche di questo, perché è assolutamente un'opera che deve ritornare alla luce, e bisognerà continuare senz'altro il progetto che aveva iniziato a redigere il preside Pasquale Culotta della Facoltà di Architettura. Io non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che il Comune ha dato incarico a mia figlia, a mia figlia Dania, di proseguire. Credo di sì. Non vorrei dire cose che non sono. Neanch'io sono informato, ma sì, sicuramente il progetto dovrebbe essere stato affidato. Io ho sentito dire a Tania, però Tania, anche perché Tania aveva partecipato, sì, aveva collaborato, quindi era a conoscenza di tutti i progetti, tra virgolette, redatti. Allora, sabato si intitolerà diciamo, una via a Pasquale Culotta. È una via che credo abbia soltanto un paio di numeri civici, ma soprattutto è una via però molto importante, perché è una delle vie che, anzi la via forse che l'architetto Culotta amava tantissimo. Lui la definiva la via del cielo, perché la via è praticamente quasi tutta sotto il tunnel d'accesso al castello, quindi si entrava in questa via al buio, e la prima immagine che un tunnel curvo, appena si usciva era da un lato il cielo azzurro, dall'altro lato il bianco delle case con le facciate in calcio, quindi una via molto suggestiva, oltretutto molto frequentata, perché chi vuol visitare Gratteri deve passare per forza da quel tunnel, chi vuol visitare il centro storico, e poi tutte le processioni a Gratteri sono una quindicina l'anno, passano da lì. L'appuntamento è dopo una conferenza che organizza Sicilia Antica. Sì. Vedrà la partecipazione dell'Università della Tuscia e dell'Università di Palermo. La prima relatrice sarà l'architetto Tania Culotta, e ci sarà anche Amedeo Tullio tra gli altri, e il saluto sarà naturalmente del sindaco e della professoressa Melina Greco, che si occupa di Sicilia Antica qui a Cefalù. C'è un legame tra l'Archeoclub e Sicilia Antica attualmente? Dico la verità, non è che collaboriamo, avendo due, cioè essendo su per giù due associazioni che hanno la stessa finalità. No, però con Melina, per carità, siamo in buonissimi rapporti sempre, infatti lei ha questo progetto di organizzare questa conferenza a Gratteri sul San Giorgio, ci ha lavorato moltissimo ed è stata più volte rinviata, però poi insomma ha avuto l'appoggio del sindaco e quindi è riuscita finalmente a farla diventare realtà, e credo che sarà una cosa molto, molto interessante, sia per il tema trattato e sia anche perché verranno a parlare persone che insomma, non perché sto parlando di mia figlia non la considerate, ma insomma il professor Amedeo Tullio, che è quel, insomma, un nostro cittadino concittadino onorario, per cui la cui conoscenza dell'archeologia è il suo mestiere. Vabbè, lo dico io, Tania è anche docente universitaria. Vabbè, insomma, diciamo che è una docente universitaria incaricata, non è che nei ruoli, e comunque fa quello che può. Sicuramente. Va bene, fa quello che può. Gratteri è il primo comune che dedicherà una via all'architetto Pasquale Culotta. Sì. Si è parlato anche di Cefalù come l'altra città che dovrebbe dedicare una via al suo concittadino, uno dei concittadini più illustri di sempre. Insomma, non voglio esprimere, sì, c'era stato detto durante l'amministrazione Guercio che c'era l'intenzione di intitolare una via a Pasquale, ma comunque insomma ciò non è stato fatto, ma non è importante questo. Noi nella nostra famiglia certo accogliamo con enorme gioia e soddisfazione e ringraziamento l'atto fatto dal sindaco Muffoletto, però insomma ce lo facciano quello che vogliono, anche perché i latini dicevano nemo profeta in patria, e Pasquale non è stato mai profeta in patria per i suoi concittadini. Noi abbiamo parlato di quanto ha realizzato per il centro storico, per la valorizzazione dei monumenti, ma dobbiamo ricordare anche quanto fatto della Cefalù Nuova. E io non sono, ripeto, non sono un esperto, però una volta ascoltandolo, lui ha detto che la sua filosofia è restituire ai cittadini anche gli spazi privati, e lo dimostrano tanti palazzi, che ad esempio penso ai due complessi sulla via Roma, dove ci sono i passaggi pubblici, e uno spazio privato che è diventato una piazza pubblica. Questa era un po' la sua filosofia, lui progettava per la gente, per la città, e penso che la città dovrebbe esserne riconoscente. Vabbè, insomma. Sa, Cefalù, da quando mio marito si laureò e cominciò a lavorare a Cefalù, perché decise proprio che voleva mantenere lo studio a Cefalù, cioè fare studio a Cefalù, perché pensava che Cefalù avesse bisogno di crescere in questo senso. Beh, da allora in poi Cefalù è stata costruita in lungo e largo, in basso e in alto, ma è edilizia, non voglio dire scadente, ma è edilizia. E Pasquale ha costruito 2-3 edifici, un palazzo giallo, palazzo GV Center, il palazzo Torrosa, sì. Questo ha fatto. Sì, infatti chi conosce questi palazzi può confermare che sono tutti palazzi che sono tutti resi, sono tutti fruibili al pubblico e al passante. Certo. Si poteva benissimo progettare chiudendo gli spazi, certo, perché erano tutti spazi, sì, privati. Poi lui ha voluto piazze, ha voluto passaggi, ha voluto camminamenti, e oltretutto molto importante, pensiamo a quello della stazione Porta della Via Roma, la piazza con tutti i negozi, i passaggi al Palazzo Giallo. E guardi, ora, guarda, Giacomo, venendo, passavo proprio sulla via San Pasquale, e tu sai, il Palazzo Giallo c'ha quella scarpata, sì, no? Con gli alberi, e loro ci avevano fatto anche la fontana, eccetera. Ci sono tonnellate di sporcizia, tonnellate di sporcizia, carte, foglie, di tutto e di più, ma insomma. L'appello è lanciato. Purtroppo i tempi radiofonici sono ristrettissimi e siamo quasi a conclusione di questa puntata di Note. Ricordo ancora una volta l'appuntamento a Gratteri alle ore 9 di mattina con la conferenza sul restauro dell'Abbazia di San Giorgio a cura di Sicilia Antica, dell'Accademia della Tuscia e col patrocinio del Comune di Gratteri. Poi ricordo ancora l'appuntamento domenicale qui a Cefalù, alla chiesa del complesso di San Domenico, la chiesa della Santissima Trinità, a cura dell'Archeoclub. Ci sarà l'apertura di questa chiesa al pubblico, sarà di pomeriggio. E questo credo che per oggi sia tutto, però dobbiamo dare ancora spazio alla regia per la pubblicità, poi saluti e qualche altro avviso che mi è stato comunicato. Ci sentiamo dopo la pubblicità. Ritorniamo in studio con un graditissimo ospite in linea. Abbiamo il sindaco di Gratteri, l'avvocato Giuseppe Muffoletto. Tra qualche minuto sarà in collegamento con noi. Già sentiamo squillare il telefono, probabilmente sarà lui. Quindi aspettiamo dalla regia l'ok per poter comunicare in diretta col sindaco di Gratteri, che ricordiamo organizzerà la cerimonia di intitolazione della via all'architetto Pasquale Culotta, la cerimonia sabato. E allora, signor sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io ero entrato poco fa in una stanza dove stavano ascoltando questa trasmissione e ho sentito qualche battuta e ho capito che stavate parlando di Pasquale Culotta e della manifestazione che si terrà qui a Gratteri sabato prossimo. E allora ho chiesto alla mia collaboratrice di telefonare, perché volevo dirvi in due parole le ragioni per le quali la mia amministrazione ha ritenuto di dedicare un tratto, diciamo, di stradale nel centro storico di Gratteri alla memoria di Pasquale Culotta. Perché? Perché Pasquale Culotta è stato non solo un grande urbanista, un grande architetto, ma perché certamente ha concorso, direi abbastanza, a far conoscere il nome di Gratteri non solo in Italia ma anche a livello internazionale, perché Gratteri fu nel suo cuore come professionista certamente, ma anche come amico di questo piccolo centro delle Madonie. Ci sono altre ragioni che poi vi dirò, qualcuna di esse attiene al rapporto, diciamo, personale con Pasquale Culotta. Io me lo ricordo, lui universitario, io ragazzino ancora, me lo ricordo impegnato nella festa della matricola. Tanti come me vedevano in lui un punto di riferimento per la sua gioia di vivere, per il suo modo di, ecco, di affrontare il rapporto con gli altri. E tengo a precisare che una delle persone più rispettose e più cefalutane tra i cefalutani. Un giorno Ciccio Muffoletto, mio padre, che è morto nel 2009, qualche anno prima che morisse Pasquale, un giorno in negozio passò Pasquale Culotta e si fermò dicendo: "Don Ciccio, come va?" Con quel suo modo sempre allegro di... Quando andò via Pasquale Culotta, mio padre mi disse: "Non c'è volta che passi Pasquale Culotta davanti il nostro negozio che non si fermi per un saluto." Così faceva quando era giovane studente, da universitario, così ha fatto da professionista, da professore universitario, da preside della facoltà di architettura. Queste sono cose che ricordi che sono indelebili nella mia mente e che mi spingono a voler bene ancora di più, ecco, all'architetto Pasquale Culotta e alla sua memoria, alla quale dedicheremo appunto sabato questa nostra parte della, di una questa strada all'interno del centro storico di Gratteri. Grazie signor sindaco. Grazie signor sindaco. C'è qui presente, la vedrà senz'altro in streaming in diretta, la signora Rosalinda Brancato, che ringrazia. Grazie a voi. Dal profondo del cuore, l'avevo già fatto in separata sede, comunque ancora grazie. Arrivederci, arrivederci. E intanto rinnovo l'invito al sindaco di Gratteri, che ricordiamo concluderà la sua seconda legislatura e quindi non potrà candidarsi alle prossime elezioni del 9 e il 10 giugno. L'ho invitato e rinnovo quindi l'invito per averlo qui in studio per farci un resoconto dei suoi 10 anni di attività, che poi sono molti di più perché era già stato sindaco a Gratteri in precedenza. È stato anche sindaco di Cefalù, quindi un saluto carissimo all'avvocato Giuseppe Muffoletto, di cui io mi onoro di essere stato per alcuni anni anche suo addetto all'immagine presso il comune di Gratteri, quindi ho cercato di scrivere dal comune di Gratteri sempre con un grandissimo piacere. Questo è davvero tutto, i tempi sono le 13 esatte in questo momento a CRM Happy Radio. Non mi rimane che ringraziarla per la sua partecipazione preziosissima, per questa trasmissione che è diventata, grazie alla sua presenza, all'intervento dell'avvocato Muffoletto, una trasmissione davvero importante, se così possiamo dire, e sarà sicuramente replicata su CRM e Pir Radio. Io un saluto a tutti i radioascoltatori, a tutti una buona giornata. Grazie per avermi invitato, per la sua brillante conduzione e buongiorno a tutti. Avete ascoltato Note, a cura di Giacomo Sapienza.